want me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, want to want. Two, two, two, hey, hey. Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di Gigi Telesco. Siamo pronti, puntualissimi come sempre su Radio 24, questo è l'appuntamento numero 102 del nostro soundcheck, la prova del suono. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo. Prima di dare il via a questo appuntamento dedicato all'importanza, al ruolo dell'etichetta discografica per un artista, vorrei ricordarvi che per contattarci, per richiedere tutti i brani in airplay, potete scrivere le vostre mail a soundcheck@radio24.it. nella nostra pagina all'interno del sito di Radio 24 troverete anche il podcast, per cui per voi sarà possibile ascoltare nuovamente le puntate messe in onda nel pomeriggio e riascoltare quindi tutto il nostro repertorio, le nostre disquisizioni e le nostre interviste. Allora veniamo a noi, la puntata di oggi è dedicata alla etichetta discografica o casa discografica, che è un marchio commerciale creato dalle compagnie specializzate in produzioni, eventualmente distribuzione e promozione di musica e in taluni casi anche di video, e quindi la distribuzione su diversi formati, dal compact disc al vecchio vinile, al DVD, una volta c'erano anche le musicassette, fino ad approdare al formato digitale in MP3. Il nome di etichetta discografica deriva proprio dall'etichetta stampata che veniva posta al centro dei dischi in vinile. Le etichette discografiche si dividono sostanzialmente in due categorie. Dunque, le major, che sono le etichette legate alla distribuzione delle multinazionali che detengono gran parte del mercato musicale mondiale. Ci sono le etichette indipendenti, che sono etichette che autoproducono e promuovono i propri prodotti indipendentemente dal circuito delle multinazionali, anche se spesso hanno accordi di distribuzione o di cooperazione con loro. Infine ci sono le vanity label, etichette fondate e gestite da un artista in genere per avere un certo grado di libertà da una o più etichette principali che ne distribuiscono la produzione. Il consolidamento dell'industria musicale avvenuta negli anni 70 e 80 portò poche compagnie multinazionali ad avere il controllo della maggior parte delle più grandi etichette discografiche. Le etichette principali furono in seguito acquistate quindi dalle grandi multinazionali, attualmente sono tre, che detengono la maggior parte dell'industria musicale. Le etichette discografiche investono parte del loro denaro e della loro attività nella ricerca di nuovi talenti e nello sviluppo degli artisti già sotto contratto. L'associazione del marchio all'artista e viceversa in caso di artisti affermati aiuta a rafforzare l'immagine sia dell'etichetta discografica sia dello stesso artista. Benché ambo le parti abbiano bisogno l'una dell'altra, i rapporti tra le etichette discografiche e gli artisti sono spesso controversi, come avviene in ogni settore quando i rapporti fra le parti divengono paritari, e molti artisti hanno subito modificazioni o censure ai propri album da parte dell'etichetta prima della pubblicazione, quindi canzoni modificate nei testi o nella lunghezza, copertine cambiate o progettate in contrasto col volere dell'artista e così via. Le etichette discografiche operano queste scelte e modificano con l'ovvio intento di ottenere maggior successo di vendita grazie anche ad ampi studi di mercato, e quindi sovente le decisioni delle etichette discografiche corrispondono ad un reale successo da un punto di vista commerciale, ma questo può creare un senso di frustrazione nell'artista che percepisce il lavoro pubblicato come non proprio. Una cantante che invece si sente sicura e serena nella collaborazione con la sua bellissima etichetta indipendente che è la Oblique Sound americana e Gretchen Parlato, che qui ascoltiamo in una vecchia composizione di Lauryn Hill riproposta dall'album Lost and Found. Il brano si intitola All That I Can Say. Gretchen Parlato al soundcheck. Living and forgiving, I was Gretchen Parlato, cantante, artista indipendente da un punto di vista discografico, visto che oggi parliamo di etichette discografiche qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Suono di Jeff Lorber Fusion, il maestro del soul jazz Jeff Lorber, con la voce di Naila in questo brano intitolato Soul Food, pubblicato dalla etichetta Narada, etichetta creata, fondata e gestita da Narada Michael Walden, cantante, musicista e compositore, che a un certo punto ha deciso di mettersi in proprio e di aprire la sua etichetta discografica, cosa che hanno fatto molti artisti quando a un certo punto, stufi del loro rapporto con la multinazionale e presi dalla loro caratura artistica e dalla loro creatività, decidono di mettere su un'etichetta indipendente per sfogare tutta la loro passione creativa. Infatti, nei primi anni della nascita dell'industria musicale, le etichette discografiche rappresentavano l'unica via di successo per un artista. Il principale obiettivo di ogni nuovo artista o gruppo era perciò quello di firmare un buon contratto discografico il prima possibile. Negli anni 40, 50 e 60 molti artisti erano talmente ossessionati dal firmare a tutti i costi un contratto da arrivare al punto di firmare un pessimo contratto con una casa discografica che talvolta non garantiva loro neanche i diritti della musica prodotta, e quindi in alcuni casi vennero assunti proprio degli avvocati per controllare i contratti prima della firma, cosa normale nei tempi moderni. A un certo punto però gli artisti decidono quindi di rendersi indipendenti per avere libertà di azione, e verso la fine degli anni 90, grazie all'utilizzo di studi di registrazione privati, di masterizzatori CD e alla diffusione di internet, ma anche a una generale diminuzione delle spese di produzione, le etichette indipendenti iniziarono ad assumere un ruolo di mercato maggiormente rilevante. Le etichette indipendenti possono permettersi però una diffusione radiofonica e televisiva decisamente inferiore e hanno minori vendite rispetto agli artisti sotto contratto con una major. Alcune sono fondate dall'artista stesso, cosa che gli permette, come dicevamo, di produrre la propria musica senza più pressione da parte dell'industria musicale. Qui al Soundcheck di Radio 24 arriva Anthony Hamilton con Pass Me Over, per una etichetta, anzi una collaborazione fra etichette indipendenti, ovvero la So-So, la Def e poi la Arista, che è quella che ha messo i soldi su Anthony Hamilton, qui al Soundcheck di Radio 24. Another day, chance to make another chance. A fragile place, running on empty. A smile so faint, barely even break the space. World's on shoulders now. Don't be afraid, he who knows will make a way. Soundcheck, il suono della musica. E oggi al Soundcheck di Radio 24 stiamo raccontando l'importanza di un'etichetta discografica come supporto per un artista, per la divulgazione della sua arte e della sua musica. Abbiamo raccontato che un tempo c'era il monopolio delle etichette legate alle multinazionali, e quindi per gli artisti l'unica possibilità di poter far conoscere la loro musica era siglare un contratto anche svantaggioso con una multinazionale. Dagli anni 90 esistono invece le etichette indipendenti, che hanno meno esposizione sui media rispetto alle multinazionali, ma danno più libertà di azione creativa agli artisti, e occasionalmente anche alcuni artisti già affermati, dopo aver terminato il contratto con una major, firmano per un'etichetta indipendente, e questo permette agli artisti di sfruttare la propria notorietà già acquisita per disporre di una maggiore libertà nella produzione dei propri album. La costante realizzazione delle tournée per gli artisti è un grande momento di promozione anche discografica. Diciamo che l'attività concertistica per un artista, soprattutto indipendente, va di pari passo con la notorietà discografica, quindi l'etichetta indipendente è aiutata dalla tournée e la tournée è aiutata poi dal ruolo che l'etichetta indipendente, con la penetrazione sul mercato del prodotto, riesce a ottenere. Le etichette indipendenti, non avendo una propria struttura commerciale, stipulano contratti di distribuzione con le multinazionali o con etichette specializzate nella distribuzione, che permette loro di avere i loro lavori disponibili nei negozi di dischi, e molte etichette nate indipendenti sono state via via acquistate dalle major, mentre altre, pur rimanendo autonome, vengono affiancate dalle major nel lavoro proprio di produzione. Allora, un'altra pausa con la musica, arriva Booker T, sì, il vecchio Booker T con il suo organo è tornato alla Stax Records, la celebre casa discografica che ha lanciato grandi artisti della black music. Il brano si intitola Impala, Booker T al soundcheck. Chiudiamo questo appuntamento dedicato all'importanza di un'etichetta discografica per un artista. Lo abbiamo raccontato, negli anni 40, 50 e 60 gli artisti, per vedere pubblicata la loro musica, erano costretti anche a firmare, a siglare dei contratti per loro svantaggiosi. Fortunatamente per gli artisti sono nate a un certo punto le etichette indipendenti, che hanno dato maggiore libertà creativa, naturalmente non potendo utilizzare la distribuzione planetaria delle multinazionali e avendo anche minore esposizione nell'immagine attraverso i media, la radio e la televisione. Ma oggi tutte e due, case discografiche indipendenti e major, combattono su un terreno abbastanza complesso da capire. Sì, perché una volta la musica veniva distribuita in formato su vinile e poi il CD, e c'erano le musicassette, sono completamente scomparsi, i DVD non vendono, oggi si vende solo il mercato digitale, quello fatto dalla vendita online attraverso gli MP3. E quindi proprio all'inizio degli anni 90 si cominciò a percepire quello che sarebbe stato il cambiamento del nuovo secolo, la nascita delle etichette discografiche online, che oggi detiene il 75% dell'industria musicale, che trae esclusivamente profitto proprio dalla vendita sul web. C'è stato il boom dei download a pagamento, rafforzato proprio dalle connessioni internet che sono sempre più veloci, e anche dei costi frazionati dei dischi stessi, perché se negli anni passati per poter comprare la canzone preferita si doveva acquistare l'intero album, oggi ogni singola traccia viene venduta separatamente. E questo vantaggio per l'utente finale ha da una parte fatto impennare le vendite dei singoli più pubblicizzati, mentre dall'altra ha clamorosamente fatto crollare le vendite dei brani minori e quindi degli album. Anche le multinazionali si sono adeguate, e anzi hanno intuito prima di chiunque altro l'imminente crisi del supporto analogico o ottico digitale come il CD, investendo così enormi cifre, e aperto un mercato ormai solo virtuale, in cui la distribuzione fisica risulta essere scomparsa, se non per dischi di artisti riconosciuti a livello planetario. E infatti anche il disco di Zara McFarlane, giovane artista inglese con un nuovissimo album, il brano che vi presento si intitola The Games We Played, io l'ho acquistato pagando in MP3 e ve lo propongo qui al soundcheck per questa produzione, dove lo zampino è sempre quello di Giles Peterson, veterano della produzione discografica inglese, per chiudere in bellezza questa puntata del soundcheck. Quindi noi ci risentiamo domani alle 15:20. A tutti voi buona giornata e buon ascolto con i programmi di Radio 24 da Gege Telesforo. Flip me a coin and I'll catch it for you. Heads can be mine and the tails can Enrico Langico arouse the truth. Soundcheck, il suono della musica.